Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Dodicesima puntata. Sverkov entrò innanzi a tutti, visibilmente capitanandoli. Lui e tutti loro ridevano, ma veduto me, Sverkov si rimpettì. Si avvicinò senza fretta, piegandosi alquanto sulla vita come civettando, e mi porse la mano, affabilmente, ma non troppo, con una certa guardinga cortesia, poco meno che da generale, come se, porgendo la mano, si guardasse da qualche cosa. Io mi ero immaginato, invece, che non appena entrato si sarebbe messo a rider forte del suo riso d'un tempo, sottile e stridente, e fin dalle prime parole sarebbero piovute le sue triviali ceglie ed arguzie. Ad esse, appunto, io mi ero preparato fin dalla sera prima, ma non mi aspettavo certo questo guardare dall'alto in basso, questa affabilità da eccellenza. Dunque, ormai si considerava proprio incommensurabilmente superiore a me sotto tutti gli aspetti? Se mi avesse unicamente voluto offendere con questi modi da generale, non sarebbe stato ancora nulla, pensavo io. In qualche maniera me ne sarei infischiato. Ma se davvero, senza nessun desiderio di offendere, nella sua zucca di pecorone, si fosse insinuata sul serio l'idea che lui era incommensurabilmente superiore a me, non poteva guardarmi altrimenti che con aria di protezione. Questa sola supposizione mi fece già ansimare. Ho saputo con meraviglia del vostro desiderio di partecipare alla nostra riunione. Egli cominciò biascicando e scilinguando e staccando le parole, cosa che prima non gli accadeva. Noi due mi pare che non ci siamo mai incontrati. Ci sfuggite. Fate male. Non siamo così terribili come vi sembra. Beh, in ogni caso, sono lieto di rinnovare. E si volse con noncuranza per posare il cappello sulla finestra. È un pezzo che aspettate? Domandò Trudolyubov. Sono arrivato alle 5 in punto, come mi era stato fissato ieri. Risposi ad alta voce e con un'irritazione che prometteva un non lontano scoppio. Non gli hai fatto sapere che si era cambiata l'ora? Domandò Trudolyubov voltandosi verso Simonov. No, ho dimenticato, rispose quello, ma senza nessun pentimento e senza nemmeno farmi le sue scuse. Andò a dare ordini per l'antipasto. Così voi siete qui già da un'ora. Ah, poveretto! Gridò beffardamente Sverkov, perché a suo modo di vedere doveva essere davvero una cosa oltremodo ridicola. Dopo di lui, con una vocetta volgaruccia, sonora come quella di un cagnolino, scoppiò a ridere quel mascalzone di Ferfichin. Anche a lui era sembrata oltremodo ridicola e mortificante la mia situazione. «Non c'è niente da ridere!» gridai io a Ferfichin, irritandomi sempre di più. «La colpa è degli altri e non mia!» «Hanno trascurato di farmelo sapere. Questo è semplicemente assurdo!» «Non solamente assurdo, ma anche qualche altra cosa», brontolò Trudoliubov, prendendo ingenuamente le mie parti. «Siete troppo dolce. È semplicemente una scortesia, certo non premeditata. E come mai, Simonov? Se a me avessero fatto un tiro simile», osservò Ferfichin, voi avreste potuto farvi servire qualcosa», interruppe Zverkov. «O addirittura chiedere da pranzo, senza aspettarci». «Convenite che questo l'avrei potuto fare senza nessun permesso?» Dissi io tagliente. «Se ho aspettato è perché...» «Sediamoci qui, signori!» gridò Simonov, entrando. «Tutto è pronto! Dello champagne rispondo io, è stato messo in ghiaccio egregiamente. Io non conoscevo la vostra abitazione, dove potevo scovarvi?» Egli disse, volgendosi a un tratto verso di me, ma di nuovo come senza guardarmi. Evidentemente aveva qualcosa contro di me. Dunque, dopo il fatto di ieri, ci aveva ripensato su. Tutti si sedettero, e mi sedetti anch'io. La tavola era rotonda. Alla mia sinistra si trovò Trudoliubov, alla destra Simonov. Zverkov sedette di fronte, Ferfichin accanto a lui, tra lui e Trudoliubov. «Dite, voi siete al ministero?» domandò Zverkov, continuando ad occuparsi di me. Vedendo che ero impacciato, si era figurato sul serio che bisognasse trattarmi affabilmente, per così dire, incoraggiarmi. «Che ha? Vuol forse che gli tiri addosso una bottiglia?» pensai, furioso. Per mancanza di abitudine mi irritavo con una innaturale rapidità. Nell'ufficio risposi, parlando a scatti e guardando nel piatto. «E a voi conviene? Dite, che cosa vi ha spinto a lasciare l'impiego di...» «Mi ha spinto proprio il fatto che ho voluto lasciare...» E dissi, strascicando le parole tre volte più di lui, quasi senza più dominarmi. Ferfichin puffò. Simonov mi guardò ironicamente. Trudoliubov smise di mangiare e cominciò ad esaminarmi con curiosità. Zverkov era rimasto male, ma non voleva farci caso. «Beh, è come il vostro emolumento». «Che emolumento?» «Cioè lo stipendio». «Ma come? Mi fate un esame?» Del resto dissi subito quanto ricevevo di stipendio. Arrossivo enormemente. «Non è l'auto», osservò con gravità Zverkov. «Sì, signori, non si può pranzare nei caffè ristoranti», aggiunse sfacciatamente Ferfichin. «Secondo me è una miseria addirittura», osservò Trudoliubov. «E come siete dimagrito? Come siete cambiato da allora?» aggiunse Zverkov. Ormai non senza veleno, con un'insolente compassione, esaminando me e il mio vestito. «Smettete di confonderlo», gridò Ferfichin, ridacchiando. «Egregio signore, sappiate che io non mi confondo», proruppi finalmente. «Avete sentito? Pranzo qui, in un caffè ristorante, coi miei denari, miei e non altrui. Notatelo, signor Ferfichin. Come? E chi è qui che pranza non coi suoi denari?» Sembra che fece Ferfichin, aggressivo, arrossendo come un gambero e guardandomi negli occhi con accanimento. «Così!» risposi io, sentendo che ero andato troppo oltre. «E suppongo che faremmo meglio a metterci a una conversazione più intelligente. Sembra che voi abbiate l'intenzione di mostrare la vostra intelligenza. Non preoccupatevene. Sarebbe perfettamente superfluo qui. Ma voi, signor mio, come mai vi siete messo a gracchiare? Non siete impazzito? Nel vostro minestrero? Basta. Basta, si mise a gridare imperiosamente Zverko. Come sciocco questo, borbottò Simonov. Veramente sciocco. Ci siamo riuniti in amichevole compagnia per salutare un buon amico che parte e voi fate il puntiglioso. Ieri vi siete invitato da voi sicché non turbate l'armonia generale. Basta, basta, gridava Zverko. Smettetela. Smettetela, signori, questo non va. Ma ecco, piuttosto vi racconterò come 2 giorni fa per poco non mi sono sposato. E cominciò una specie di pasquinata sul modo come questo signore 2 giorni prima per poco non si era sposato. Sullo sposalizio, del resto, non c'era nemmeno una parola, ma nel racconto non comparivano che generali, colonnelli, perfino gentiluomini di camera, mentre Zverkov, in mezzo a loro, era quasi al primo posto. Cominciarono le risate d'approvazione. Ferfikin cacciava perfino degli strilli. Tutti mi avevano abbandonato e me ne stavo lì depresso e umiliato. Signore, è questo il mio ambiente, pensavo. E che figura da imbecille mi sono costretto a fare dinanzi a loro. Eppure ho lasciato troppa libertà per fighi. Credono i babbei di avermi fatto un onore dandomi un posto alla loro tavola. E invece non capiscono che sono io a fare un onore a loro e non loro a me. È dimagrito il vestito. Maledetti calzoni. Zverkov, ancora poco fa, ha notato la macchia gialla sul ginocchio. Cosa faccio qua? Che faccio qui? Subito, all'istante. Ora, devo alzarmi da tavola, prendere il cappello e semplicemente andarmene, senza dire nemmeno una parola, per disprezzo. E domani scendere magari in duello. Mascalzoni, non sono certi 7 rubli che devo rimpiangere. Magari penseranno che il diavolo se li porti. Non rimpiango i 7 rubli. Vado via sull'istante. E si intende che io lì restai. Dal dolore bevevo Lafite e Xerex a bicchieri. Non essendoci abituato, mi stavo ubriacando rapidamente e con l'ubriachezza cresceva anche la stizza. A un tratto mi venne voglia di offenderli tutti nel modo più insolente e poi andarmene, cogliere il momento e mostrarmi a loro. Dicessero pure, sia pure ridicolo, ma intelligente e, insomma, che il diavolo li porti. Sfrontatamente feci il giro di tutti con gli occhi annebbiati, ma loro sembravano ormai avermi del tutto dimenticato. Loro facevano chiasso, gridavano, erano allegri. Parlava sempre Zverkov. Io cominciai a tendere l'orecchio. Zverkov raccontava di una pomposa signora che egli aveva indotta finalmente a dichiararsi, si intende che mentiva come un ciabattino, e diceva che in questa faccenda lo aveva particolarmente aiutato il suo intimo amico, un principetto, Lussaro Collia, che aveva 3.000 anime. E intanto questo Collia, che ha 3.000 anime, qui non c'è affatto a salutarvi. Feci, mettendo bocca tutto a un tratto nella conversazione, e per un minuto tutti tacquero. Voi a quest'ora siete già ubriaco, disse Trudolyubov, e acconsentì finalmente a notarmi, girando con disprezzo lo sguardo dalla mia parte. Zverkov, in silenzio, mi esaminava come fossi uno scarabeo. Io abbassai gli occhi. Simonov cominciò in fretta a versare champagne. Trudolyubov alzò la coppa e dopo di lui l'alzarono tutti. tranne io. «Alla tua salute e buon viaggio!» egli gridò. «Per gli anni del nostro passato, signori, per il nostro avvenire! Urrà, urrà, urrà! Tutti bevvero!» E si fecero avanti per baciare Zverkov. Io non mi mossi. La coppa piena stava intatta dinanzi a me. «E voi non volete bere?» si mise a urlare Trudor Ljubov, che aveva perduto la pazienza, rivolgendosi minacciosamente a me. «Io voglio fare un discorsetto per conto mio a parte. E allora berrò, signor Trudor Ljubov?» «Antipatica vipera!» borbottò Simonov. Io mi raddrizzai sulla sedia e presi febbrilmente la coppa, preparandomi a qualcosa di insolito e non sapendo ancora io stesso che cosa precisamente avrei detto. «Silence!» gridò Ferfichi. «Ora sì, ci sarà dello spirito!» Zverkov aspettava molto seriamente, comprendendo di che si trattava. «Signor tenente Zverkov, sappiate che odio le frasi, i frasaioli e gli abiti stretti alla vita. Questo è il primo punto. E adesso segue il secondo.» Tutti ricevettero una profonda scossa. «Secondo punto. Odio le porcherie e i porcaccioni. E specialmente i porcaccioni. Terzo punto. Amo la verità. La sincerità, l'onestà.» E continuai quasi macchinalmente perché cominciavo già anch'io ad agghiacciare dal terrore, non comprendendo come mai parlavo così. «Amo il pensiero, signor Zverkov. Amo il vero cameratismo in condizioni di parità. No, non... Ma amo... Ma del resto, perché mai? Anch'io berrò la vostra salute, signor Zverkov. Seducete le circasse. Sparate ai nemici della patria e... Alla vostra salute, signor Zverkov!» Svergo si alzò dalla sedia, mi fece un inchino e disse: «Vi sono molto riconoscente.» Era tremendamente offeso ed era perfino impallidito. «Che il diavolo se lo porti!» urlò Trudor Ljubov, dando un pugno sulla tavola. «No, signori, per questo si dà un ceffone sul muso!» strillò Ferfichin. «Cacciarlo via bisogna», borbottò Simonov. «Nemmeno una parola, signori, nemmeno un gesto!» gridò solennemente Zverkov, frenando l'indignazione generale. «Vi ringrazio tutti, ma saprò dimostrargli da me quanto apprezzo le sue parole. Signor Ferfichin, domani stesso voi mi darete soddisfazione delle vostre parole di orora.» Dissi io, a voce alta, rivolgendomi gravemente a Ferfichin. «Cioè? Un duello?» «Sia pure», rispose quello, «ma sicuramente ero così ridicolo nel momento della sfida e la cosa si addiceva così poco alla mia figura che tutti, e dopo tutti gli altri anche Ferfichin, si tennero la pancia dalle risa.» «Sì, certamente, lasciatelo stare, è proprio ubriaco», proferì Trudor Ljubov con disgusto. «Non mi perdonerò mai di averlo iscritto», borbottò di nuovo Simonov. «Ecco, è ora che bisognerebbe tirare una bottiglia a tutti», pensai io. Presi una bottiglia e... mi versai un bicchiere colmo. «No. È meglio che io rimanga sino alla fine», seguitavo a pensare. «Voi sarete lieti, signori, che me ne andassi. A nessun costo. A nessun costo rimarrò qui a bere sino alla fine. come segno che non vi attribuisco la minima importanza. Rimarrò qui a bere, perché questa è una bettola e il prezzo dell'ingresso l'ho pagato. Rimarrò qui a bere, perché vi considero delle nullità, delle nullità inesistenti. Rimarrò qui a bere e a cantare se vorrò, signori, perché ne ho il diritto di cantare, ne ho il diritto. Ma non cantavo. Mi sforzavo soltanto di non guardare nessuno di loro. Assumevo le pose più indipendenti e attendevo con impazienza che essi si mettessero a parlare con me. Ahimè. Essi non si misero a parlare con me. E come avrei desiderato in quel momento di far la pace con loro. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fiodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.